occhi rossi, anche gialli, eri insieme, ci sei anche tu. C'è qualcuno di là che non è tra noi. Vuole stare tra di noi, quel colore qui non c'è. Lui ci guarda e poi pensa come noi. Chiamiamolo di qua tra noi e poi chiediamo cosa fa. E lui si sentirà felice, tanto prendiamoci per mano e poi una canzone in coro va. Tu non sei diverso e dai, dai canta con noi e poi corriamo via di qua in cerca di amici. Vedrai che tutto cambierà. Lui ci vede, tu parli, lui cammina, ci sente di più. C'è qualcuno di là che non è tra noi. Vuole stare tra di noi, quel colore qui non c'è. Lui ci guarda e poi pensa come noi. Chiamiamolo di qua tra noi e poi chiediamo cosa fa. E lui si sentirà felice.